repair this world, make this time different than all the rest. Известные проблемы в мировых финансах. I'm beginning a conversation with you, with America. Jefferson 2, l'arte della svolta. Di Stefano Pistolini. Italy has declared Good Friday a national day of mourning as preparations continue for a mass funeral to be held in L'Aquila for earthquake victims. The number of people killed in Monday's powerful quake now stands at 287. Tutto il mondo ha seguito stamani, allora naturalmente mattina per noi qui in Italia, la grande cerimonia che si è svolta all'Aquila per commemorare le vittime del terremoto. È diventata in questo modo una emozione globale, dopo che per tutta questa settimana l'Italia e la tragedia italiana ha occupato il centro delle cronache di tutti i principali mezzi di informazione internazionali, in particolare quelli anglosassoni. Ho scelto questo pezzo pubblicato oggi sul sito di New York Times e anche sulle pagine New York Times, a firma di Rachel Donadio, la nuova inviata dall'Italia del quotidiano della Grande Mela, per darvi un po' il taglio, il sapore, il modo in cui gli americani e con essi naturalmente migliaia, milioni in realtà di italo-americani sono venuti a conoscenza dei fatti, oltre naturalmente alle immagini delle televisioni. Scrive Rachel: migliaia di persone in lacrime hanno preso parte a una commovente commemorazione per le vittime del terremoto che ha devastato la montagnosa regione dell'Abruzzo, nell'Italia centrale, uccidendo 289 persone. La cerimonia è stata officiata dalla seconda carica vaticana, il cardinale Tarcisio Bertone, che ha detto ai convenuti che la morte ci insegna che tutto può finire in un momento e che quando tutto finisce, tutto ciò che rimane è l'amore. Le emozioni hanno scosso la folla, i singhiozzi si udivano da ogni lato, amici e familiari si confortavano a vicenda mentre i volontari della Croce Rossa distribuivano bottiglie d'acqua alle persone in difficoltà. Il fatto che il Vaticano abbia concesso una dispensa speciale per dire messa di Venerdì Santo, l'unico giorno nel calendario della Chiesa di Roma che prevede la sospensione della messa, ha aggiunto ulteriore emozione alla giornata. I sacerdoti indossavano abiti bianchi drappeggiati di viola, il colore del lutto, della Pasqua, dei funerali. All'inizio della cerimonia, sotto un cielo nuvoloso, 205 bare erano poggiate nella grande piazza, scure per gli adulti, bianche per i bambini, quasi tutte coperte di corone di fiori. E quelle delle quattro giovani sorelle Germinelli erano una accanto all'altra, scrive ancora Rachel Donadio del New York Times, ciascuna con il nome e la data di nascita: Rosa 1992, Micaela 1995, Chiara 1998, Giuseppina 2002, su ognuna un gran mazzo di fiori incelofanati, dei lilà bianchi, con un fiocco con sovrascritto "da papà". Non abbiamo più lacrime, ha detto una donna che ci ha concesso solo il suo nome, Lorella. Ora ci è chiaro che noi siamo niente. La vita può scivolare via da un momento all'altro. Un'altra donna, Imma Abate, piangeva mentre dava l'addio agli amici. La famiglia a cui affittava il suo appartamento è stata sterminata. Un padre, una madre incinta, il loro bambino di 2 anni. Voglio andare via, mi ha detto la signora Abate. Voglio lasciare l'Italia. Il Papa Benedetto XVI, in un messaggio ai sopravvissuti al terremoto che ha avuto una magnitudo di 6.3, ha detto di sentirsi spiritualmente tra loro e di condividere il loro dolore. Cardinal Bertone ha detto che il Santo Padre fin dall'inizio ha preso a pregare per questa gente che oggi vuole sentirsi al suo fianco. La cerimonia è stata trasmessa in diretta televisiva. Il governo ha dichiarato il lutto nazionale, bandiere a mezz'asta, negozi con le serrande abbassate, le luci spente, perfino i vigili della strada immobili agli angoli delle città. Un minuto di silenzio è stato osservato in tanti luoghi, dagli aeroporti ai musei vaticani. Questa è l'immagine del nostro paese nel momento della tragedia, dell'elaborazione di questo grande lutto collettivo, per come viene rimandata dal quotidiano più importante del mondo, dal New York Times. Ora abbiamo in diretta Filippo Di Giacomo, sacerdote, giornalista, voce abituale di Radio 24 e amico anche del nostro programma, che tra l'altro ha seguito minuto per minuto la cerimonia dell'Aquila. Ciao Filippo. Buonasera. Ma io vorrei chiederti, a te che sei sacerdote, però mi piacerebbe sapere proprio da te, dal tuo punto di vista, qual è stato, se riesci a individuarlo, invece l'elemento civile, non so come dire, l'elemento che si può andare a pescare dentro la cittadinanza che ha partecipato a questa cerimonia, che ti ha colpito, che si è fatta notare ai tuoi occhi, cosa ti viene? Beh, che non è stata una commemorazione, che il discorso del Papa era molto più importante, perché poi in realtà ha, diciamo così, condiviso questo momento così come appare strutturato, che all'Aquila, su Piazzale dell'Aquila, alla caserma della Finanza dell'Aquila, c'era l'Italia reale, quella che costruisce all'interno delle tante località del nostro paese un vivere quotidiano dove appunto si parla di famiglia, si parla di rapporti di amicizia, si parla di identità territoriale, si parla di memoria storica, si parla di volontà di riprendere. È stata una cerimonia nobile in senso più pieno della parola, perché in fondo vorrei far notare che c'erano 5.000 abruzzesi davanti a quei morti. È arrivato il segretario del Papa, ha dato la parola del Papa. Prima erano arrivati il Presidente della Repubblica e tutte le autorità. Poi è arrivata la parola del Cardinale Segretario di Stato, l'hanno ricevuto con molto rispetto, in pieno silenzio. Poi alla fine della messa ha parlato il Vescovo e con una preghiera ha ripetuto le parole della fede cristiana, in cui ai piedi della croce diciamo così, ha messo tutto ciò che la gente crede, cioè la fede nella risurrezione, ed è stato l'unico ad essere applaudito. Cioè, cosa vuoi dire? Che c'è stata una connessione particolare? Ma dico che, diciamo, a volte quando facciamo le belle discussioni sulla laicità, e diciamo come se fossimo 3, 4, 5 Italie diverse, forse, diciamo così, dobbiamo un pochettino ricordarci che quello che poi ci raccontiamo quando parliamo di valori, che non sono nell'empireo, perché sono risposta a dei bisogni, quando parliamo di valori forse ci sono delle realtà, come appunto l'unico vescovo applaudito in mezzo a quell'Italia rappresentata, a quell'Italia sana, nobile, rappresentata in quel luogo. Forse quando parliamo di quei valori come risposta ai bisogni che la gente oggettivamente esprime, forse lì c'è una verità che andrebbe anche recepita al di là di certe discussioni molto schematiche. Oh, c'è stato tra l'altro anche un intervento di un rappresentante di una religione diversa, vero, nell'ambito della cerimonia? Ma questo dal punto di vista cattolico non è strano, perché noi altri cattolici non abbiamo mai chiesto a nessuno di salire su un altare convertito. Può anche venirsi a sposare in chiesa, o addirittura riteniamo validi i battesimi dati da non... Però non so se ci sono dei precedenti su... No, su... ma il fatto importante è che un islamico non ha avuto paura di venire su un altare, certo, a dire, certo, la pace sia con voi. Questo è un primo passo. Poi magari un altro giorno ci sarà un prete che andrà a una moschea a dire la pace sia con voi. A volte quando discutiamo nei confronti dell'altro come se fossimo sempre, diciamo così, o tutti uguali, o altrimenti se siamo diversi siamo nemici. Forse possiamo anche stimarci per le differenze e incominciare. In fondo, in realtà, se siamo cattolici, siamo stati fatti cattolici forse per compiere i primi passi, quelli più difficili, quelli che magari nessuno vuole compiere. Grazie a Filippo Di Giacomo di queste parole, di questo ricordo in relazione a una giornata, a un incontro, a una cerimonia che sicuramente resterà nella memoria degli italiani. Enough. Colleghiamo con L'Aquila, Coppito, la conferenza stampa del Premier Silvio Berlusconi. Abbiamo in corso anche un censimento massiccio della popolazione che sta fuori casa. Il totale della popolazione assistita è stato il totale di 30, quasi praticamente 40.000 persone, di cui 15.350 allocate nelle case e 24.138 nelle aree di ricovero con le tende, assistite sia per quanto riguarda 17 centri ambulatoriali, sia per quanto riguarda i pasti caldi da 39 cucine da campo. Abbiamo cominciato a ragionare seriamente della ricostruzione. Allora, per quanto riguarda le case di abitazione, stiamo ragionando di queste possibilità. La prima, se ci sono dei privati che ritengono di poter effettuare direttamente a loro cura e spese la ricostruzione delle abitazioni o comunque il restauro delle loro abitazioni, la cosa migliore, la formula migliore potrebbe essere di dare a queste persone un sostegno economico da parte dello Stato. Queste persone potrebbero altresì ricorrere al sistema bancario per accendere dei mutui. Questo sistema è stato visto negli incontri che abbiamo fatto molto favorevolmente dal sindaco dell'Aquila e da altri sindaci ed è visto favorevolmente dal Presidente della Regione Abruzzo. Il secondo sistema è quello che abbiamo chiamato delle parcellizzazioni, cioè individuare delle zone progetto di varia estensione da assegnare per la riprogettazione, per la realizzazione, anche per il sostegno economico alle province italiane, a ciascuna provincia, a secondo dell'importanza economica della provincia, assegnare un lotto più o meno grande. Ho detto già questa mattina che mi piacerebbe che le province pensassero a tutto, ci sarà sempre comunque una regia nazionale da parte della Presidenza del Consiglio attraverso la Protezione Civile e i suoi esperti, ma mi piacerebbe che le province pensassero a mettere lì, oltre che ai progettisti, anche ai direttori di lavori, ingegneri, geometri, pensassero a portare lì aziende di edilizia con sede nella stessa provincia e anche a effettuare un reperimento di mezzi presso le aziende o comunque presso la comunità della provincia stessa. Ho detto che mettendo in chiaro la data di inizio lavori e la data prevista di ultimazione lavori e l'importo dei lavori, si potrà avere una grande trasparenza in tutte queste operazioni e stabilire anche una specie di gara tra l'una e l'altra provincia e esporre alla critica pubblica chi non rispettasse i termini di fine lavori. Terza situazione, quella dei beni artistici, dei beni culturali. Abbiamo ricevuto, come sapete, offerte di aiuto da moltissimi stati ho parlato personalmente con capi di Stato e di Governo, ho ringraziato molto per la disponibilità mostrata a darci qualsiasi tipo di aiuto in termini di uomini, di medicinali, eccetera. Ho detto, per grazia di Dio ce la facciamo bene da soli, come abbiamo dimostrato di poter fare, però se volete dare un segno di solidarietà saremo molto grati se vorrete lasciare un segno che si prolunghi nel tempo. Allora vi daremo un elenco di opere di pregio artistico o qualche edificio pubblico anche magari, e lasceremo a voi la possibilità di scegliere quello che vi conviene, sia perché la cosa vi piace di più, sia perché la somma prevista rientra in quello che voi volevate impegnare. E quindi dal piccolo paese, dalla Slovenia, cui il Presidente mi ha telefonato ieri, all'Australia, al Canada, mi hanno telefonato praticamente tutti, e tutti si sono dichiarati molto interessati, addirittura qualcuno entusiasta, per esempio la signora Nancy Pelosi e il Presidente Barack Obama hanno manifestato addirittura entusiasmo e vogliono intervenire in questa direzione. Ho parlato ieri con François Fillon, primo ministro francese, avevamo fissato con il Presidente Sarkozy una sua visita qui per martedì pomeriggio, poi c'è stata una novità, un altro impegno, e l'abbiamo rimandata a tempo da definirsi, ma comunque c'è stata la grande attenzione del governo e della presidenza francese alle nostre vicende. Infine ci sono gli edifici pubblici che costituiscono una buona parte del centro dell'Aquila. Qui il discorso si fa più lungo, perché le lesioni che abbiamo potuto ieri constatare sono lesioni che comporteranno lavori lunghi all'interno di ciascuno palazzo, e quindi su questo sarà possibile fare un preventivo di tempo soltanto dopo un accurato studio palazzo per palazzo. Io credo che questo sia tutto. Registro in più, come ho iniziato a dire prima, una grande solidarietà da parte di tutti, un grande spirito appassionato di partecipazione da parte degli uomini e delle donne che operano qui, e anche con stamattina una grande, grandissima dignità e compostezza da parte degli aquilani e degli abruzzesi, popolo forte e gentile che anche in questa occasione ha dato una grande dimostrazione di compostezza e di civiltà. E credo che possa essere questo un esempio da portare a tutti i cittadini d'Italia. Lascio la parola prima al Presidente, se ha qualcosa da aggiungere. No? E chiedo a Guido di aggiungere qualche cosa. No? Dopo una giornata, no, una mattina sì, del genere, credo che il silenzio sia la cosa migliore. Benissimo. Io mi scuso anche, anch'io ho dato rapide risposte, non mi sono sentito di dire di no a chi mi domandava l'intervento di 5-10 minuti. Non vado a trasmissioni televisive, ai talk show, eccetera, non per mancanza di buona volontà, ma perché francamente abbiamo tanto da fare, tanto da lavorare, e questi giorni qua sono stati giorni di una densità operativa veramente straordinaria. Continueremo. Mi è stato chiesto da tutti una cosa: diteci che non ci lasciate soli. L'ho promesso davanti alle bare. E queste sono le parole di Silvio Berlusconi in diretta dall'Aquila, la conferenza stampa con cui ha annunciato l'inizio della pianificazione degli interventi relativi al sisma di domenica notte. Questo invece torna a essere Jefferson 2, ancora qualche minuto, qualche nota musicale, poi dopo la pubblicità riprendiamo con i nostri argomenti. Do birds suddenly appear every time you are near? Just like me, they long to be close to you. Why do stars fall down from the sky every time you walk by? together and decided to create a dream come true. So they sprinkled moon dust in your hair of gold, the starlight in your eyes of blue. That is why all the girls in town follow you. Torniamo al trend, al tenore abituale di Jefferson 2, ovvero alla osservazione di quelle cose che si succedono, si connettono, capitano nel mondo a est e a ovest, sempre con un occhio di particolare attenzione nei confronti degli Stati Uniti d'America e ciò che la nuova amministrazione ormai è vicino ai fatidici 100 giorni di Barack Obama sta mettendo in piedi per addrizzare una barca che, come sapete, si è trovata e si trova tuttora in brutte acque. Si è riaperto, sono discorsi al ritorno dal viaggio in Europa, si sono riaperti, sono tornati a essere sulle prime pagine dei giornali gli argomenti legati al Medio Oriente, e in modo fatale e doloroso è arrivata anche una notizia poco fa che ci sono ben 5 soldati americani tra le vittime di un attacco suicida oggi a Mosul nel nord dell'Iraq, lo fanno sapere i militari statunitensi, ed è come dire, singolare che tutto ciò arrivi mentre nel contempo c'è una specie di convergenza, no, di richieste, di pressioni sia da parte di Obama nei confronti del Congresso, chiede altri fondi, ha chiesto 80 miliardi di dollari extra per rilanciare la strategia militare in Afghanistan e per stabilizzare l'Iraq dopo il progressivo ritiro delle truppe. I soldati vanno via, ma bisogna lasciare una serie di strutture, e queste strutture costano. Ha indirizzato una lettera Barack Obama alla speaker della Camera Pelosi, sottolineando che la minaccia centrale più forte, più intensa, a parere del suo team, arrivi in questo momento dal confine Pakistan-Afghanistan. L'insorgenza talebana e Al-Qaeda minacciano l'America dai loro rifugi lungo questo confine, e al tempo stesso però, laddove la missione si suppone si stia avvicinando al suo compimento, ovvero in Iraq, si tratta di aiutare il popolo ad assumersi la responsabilità del proprio futuro per uscirne nel modo migliore possibile, al prezzo di 83,4 miliardi di dollari. Questa è la richiesta rivolta da Obama al Congresso, fondi che andrebbero poi sotto la diretta gestione del Pentagono. E arrivano altre notizie a circondare sempre questi scenari. La prima è quella che ci fa sapere che l'attività di Al-Qaeda nelle province irachene potrebbero impegnare le truppe di combattimento oltre la scadenza del 30 giugno, che è fissata per l'inizio del grande ritiro, credo a modo suo uno spettacolo epocale a cui assistere, di cui capire le logiche e le modalità sarà particolarmente interessante. Comunque a parlare è Ray Odierno, ovvero l'attuale comandante in capo americano in Iraq. Ha rilasciato una intervista a un quotidiano britannico e ha detto che il numero dei soldati a Mosul e Bakuba nel nord del paese dovrebbe aumentare anziché diminuire nel corso del prossimo anno. Una decisione in proposito sarà presa nelle settimane a venire, e certamente notizie come quelle dell'attacco suicida a Mosul con 5 morti tra i soldati americani non aiuta, o forse spinge, no? Vedete come ci sono delle oscillazioni, delle turbulenze attorno a queste notizie. Odierno si è detto molto preoccupato per il rischio della ripresa del conflitto tra curdi e arabi nelle province settentrionali e ha detto di ritenere molto pericolosa la minaccia costituita dai gruppi sciiti finanziati dall'Iran sul genere, sullo stile, nel solco degli Hezbollah libanesi. Le truppe americane, a suo parere, dovrebbero, come dire, riflettere ancora prima di avviare un procedimento di ritiro che potrebbe a questo punto poi difficilmente, no, arenarsi, difficilmente frenarsi, difficilmente riguadagnare una logica di stanziamento sul territorio iracheno. Sicuramente questo è il principale argomento al centro dei giornali, dell'informazione, di quei media americani che abbiamo un po' trascurato nelle ultime giornate e di cui si dibatte, come l'altro tema emergente nell'amministrazione Obama è l'immigrazione, e ne parleremo sicuramente a partire dalla settimana prossima. E poi tante notiziole invece più leggeri e divertenti, ma che creano però, come dire, un sommovimento anche semplicemente sociale e un interesse particolare da parte di media più leggeri. Non ultima quella notizia secondo la quale Michelle Obama continua a coltivare quello che è ormai l'orto più famoso del mondo, l'orto della Casa Bianca, ha seminato, e siccome non abbiamo ancora notizie sul cane presidenziale, siamo angosciati per questo di non potervi informare, sto scherzando naturalmente, però almeno accontentiamoci della semina di Michelle Obama: spinaci, insalata, fragole e vari tipi di frutta e verdura, tutto ciò la First Lady americana, che a modo suo poi insomma fa il suo percorso professionale, vuol dire anche questo essere una First Lady. Naturalmente il marito ha le responsabilità principali, Michelle ha responsabilità oggettive, ma poi esiste anche un modo di comunicare più leggero, più lieve, spesso gradite alle persone magari già travolte da molte preoccupazioni. Tutto questo dalla Casa Bianca. Invece adesso vediamo che cosa arriva direttamente da voi. Anche Express Yourself ha vissuto giorni così un po' convulsi, un po' particolari nell'ultima settimana. Abbiamo utilizzato più che altro tematiche di dibattito legate al sisma dell'Aquila. Avevamo lanciato però il giorno poi della tragedia, il giorno del terremoto, un tema che ci stava particolarmente a cuore, legato alla questione del famoso missile nordcoreano. Ma la storia più o meno la sapete, è vagamente fantozziana. Il missile alla fine è stato lanciato, ma si è sfasciato, è finito un pezzo nel Mar del Giappone, altri pezzi nell'Oceano Pacifico, non ha funzionato. I vari governi hanno reagito in tanti modi diversi, se da chi come l'America ha parlato di chiara violazione delle risoluzioni delle Nazioni Unite, chi come il Giappone ha parlato di episodi disdicevoli, la Corea ha parlato di delusione rammarica. La Cina ha preso atto, la Russia ha detto se si guardino le parti interessate d'azione possono innescare peggioramenti, nota ferma condanna dalla presidenza dell'Unione Europea, condanna anche dalla Farnesina, Gordon Brown ha parlato di gesto totalmente inaccettabile, la Francia di un missile che minaccia la pace, e noi abbiamo chiesto a voi con quale di queste espressioni di riprovazione o no nei confronti della Corea del Nord vi allineate. Se Allora, devo dire che le risposte degli ascoltatori sono state alcune serissime, altre stravaganti, curiose. Per esempio c'è Marco che evidentemente non si lascia tangere dal discorso e dice: anche stavolta faccio la polide. Evidentemente non gli interessa nessuna delle opinioni, oppure non ne condivide alcuna. Alcune. Qualcun altro fa riferimenti a macchine di vecchio stampo scassate, ma insomma fa delle battute simpatiche, forse oggi non è il caso di ricordare. Mentre Silvestro, Tom Silvestro, dice giù Giappone la posizione che condivide, e si auspica una discussione seria e decisa affinché tutti siano decisi poi a loro volta a lasciare solo la Corea del Nord, Cina e Russia compresi. Giappone è la più moderata, quella che parla di episodio disdicevole. Però disdicevole, insomma, non è proprio un giudizio tenerissimo. Infine c'è Nikita che, da un punto di vista del tutto atipico, direi che è sola contro tutti nel nostro mondo di Facebook, perché dice: non condivido nessuna delle presenti dichiarazioni, questo perché ritengo che, essendo la Corea del Nord uno stato sovrano, abbia tutto il diritto di lanciare i suoi vettori. Abbiamo registrato anche altri pareri di questo genere, dicendo: ma di chi è questo spazio? Ma siamo sicuri che qualcuno governi lo spazio? C'erano anche in passato delle... Però non è che da Roma partano dei missili così di tanto in tanto. No, ma se Dio ce ne guardi, ma c'erano affermazioni però su un imperialismo, un rampante imperialismo spaziale. Poi però mi sembra che i pareri in realtà vadano in un'altra direzione. Flavio ad esempio dice: a modo loro hanno ragione tutti, io ci vedo una dichiarazione di disperazione della Corea del Nord che cerca di farsi vedere. Alexander ci ha scritto: decisamente sono d'accordo con Obama, anche se in questo caso ci vuole diplomazia e non cedere alle provocazioni. Maurizio si chiede: il Vaticano tace? Beh, insomma, sull'argomento missili sia particolarmente coreani, a parte il fatto che in questo momento, come ci ha raccontato Filippo e Giacomo, sono molti gli argomenti di intervento, di visibilità, ma magari missili. Mukeba: tutte le reazioni sono di circostanza, niente di nuovo sotto il sole, tanto rumore per nulla. Sì, ci sono altri pareri interessanti. Per esempio Marco dice: la Corea del Nord è un bel problema, più che altro perché rischia di diventare il sassolino lanciato dalla mano, tra parentesi, cinese, che subito poi si nasconde. Poi c'è Luca che dice: sarò cinico, ma mi sembra tutto un gioco delle parti. E infine c'è il dubbio amletico contemporaneo di Massimiliano che dice: quello che non capisco assolutamente è come oggi possa esistere ancora una dittatura comunista come la Corea del Nord. Cuba non è minimamente paragonabile, forse era solo l'Albania comunista, quindi veramente vecchi ricordi per Massimiliano. Però Cuba è al centro dell'interesse in queste ultime ore, le aperture di Fidel Castro in prima persona, ma comunque del regime cubano, e i segnali lanciati dalla Casa Bianca di Obama vanno in direzione di una distensione o perlomeno della ricerca di strade per arrivarci molto presto con l'isola vicina alla Florida. Francesco scrive: niente paura, abbiamo in ostaggio i due pizzaioli favoriti dell'illuminato. Ironia a parte, l'amabile Kim, questa è una lettera molto singolare, l'amabile Kim ha bisogno di soldi, un disperato bisogno. Le abilità da equilibrista della politica internazionale del capo supremo a Nord Corea ancora una volta faranno centro sulla ribalta della crisi mondiale. Il sipario di fuochi artificio cala dettando la fine del primo atto, insomma una visione. Poi ci spiega il sottotesto di questo discorso. No, è una visione, è chiaro. Una visione, come dire, molto metaforica, ma del fatto che la Nord Corea, come diceva un altro ascoltatore, cerca attenzione. Ancora? Sì, forse il punto di vista più interessante è quello di Matteo, perché dice: non nascondo che quando mi trovo in Corea del Sud, quindi un punto di osservazione privilegiato e molto vicino, c'è la sensazione che possa sempre accadere qualche cosa. Ecco, i missili dall'altra parte lo possiamo anche credere. Massimo ha scritto: come al solito, grazie ai mezzi di disinformazione non si capisce bene se il lancio di questo missile sia per mettere in orbita un satellite oppure no. Caro Massimo, è proprio questo l'interrogativo a cui credo anche fior di servizi segreti hanno cercato di rispondere, perché certamente i nordcoreani non hanno spiegato nulla e non hanno aiutato affatto, non hanno detto. Ha detto sì che era una, io da una, quello un che esperimento so, da fonti interne, diciamo, fonti coreane. Sostengono di non avere i soldi per fare proprio un missile del genere, però bisogna poi crederci, chi lo sa. Insomma, c'era grande preoccupazione da parte dei servizi segreti, del servizio segreto americano in particolare, parlava di missili a lunga gittata. Comunque Manuel, per concludere, dice e scrive: il regime nordcoreano è una minaccia che va affrontata e risolta, perché se si ha un cancro lo si cura e non ci si convive. Insomma, una ferma presa di posizione. Tra poco torniamo invece a parlare di realtà italiana. E affrontiamo sempre attraverso i vostri stimoli, le vostre richieste, un tema molto sentito in questi giorni, cioè dare in favore dei terremotati, in favore della ricostruzione, ma come dare senza avere quella spiacevole impressione, no, di sentirsi un po' imbrogliati. A tra poco. Anyone would be. I am flattered by your fascination with me. Like any hot-blooded woman, I have simply wanted an object to crave. But you, you're not alone, you're uninvited, an unfortunate slight. Margine, diciamo così, positivo, costruttivo, intriso di buona volontà, di desiderio di partecipazione, di spirito empatico che circonda questa strana, bizzarra e per molti versi tragica settimana italiana che giunge a conclusioni. C'è il tema degli aiuti, anche Jefferson, che pure è una trasmissione che si occupa di questioni internazionali, di scenari in giro per il mondo, sta ricevendo da parte di tanti suoi aficionados, ascoltatori abituali, soprattutto attraverso le nostre pagine di Facebook, attraverso le mail connesse, tante richieste che suonano più o meno così. Ascolto il programma, ascolto Radio 24 da questo o quell'altro luogo del mondo, sono naturalmente rimasto sconvolto, sono rimasto addolorato da quanto è accaduto a partire da domenica in Abruzzo, nell'area dell'Aquila. Voglio aiutare, voglio fare quanto è nelle mie possibilità, cominciare da quelle economiche per partecipare, aiutare, rendermi utile praticamente, dare in sostanza la parola chiave, però è molto difficile, perché in un certo senso esiste, non voglio usare la brutta espressione di un mercato dell'offerta, ma esiste, diciamo, un ampio ventaglio di canali attraverso i quali avviare questi soldi poi a un utilizzo pratico, e questi canali poi di tanto in tanto provocano anche qualche brutta sorpresa, perché ci si rende conto che non interamente la cifra che si intende devolvere arriverà a destinazione, e poi è sempre molto difficile capire quale sia il terminale a cui questi quattrini sono destinati, e tanto più se si vive all'estero, se si guarda all'Italia magari come a un terminale anche affettivo, passionale, tutto ciò diventa così più preoccupante, più incerto. Allora noi abbiamo chiamato Paolo Landi, che è il segretario generale di Adiconsum, l'associazione di consumatori, che di tematiche di questo genere penso ne sappia ben più di noi e ci può dare per questo una mano. Buon pomeriggio, Landi. Buongiorno, buongiorno. Allora, come dicevo nell'introduzione, veramente in occasione di questa tragedia la partecipazione è stata su livelli straordinari, la partecipazione passionale, ma anche la prontezza, no? In questo contemporaneo strano che viviamo tutti insieme, a un certo punto non dico si prova un sollievo, ma si prova veramente un desiderio, no? Di magari separarsi da qualche banconota e di attraverso quelle sentirsi un po' utile a come le cose possano migliorare per chi è in difficoltà. Però, Landi, è difficile difficile. È difficile capire dove i soldi finiscono e soprattutto è difficile accettare che spesso questi soldi risultino, come dire, un po' sottoposti a dei trattamenti non perfettamente limpidi. Ci può fare un po' un quadro della situazione? E se è ottimista e se è positivo, ne siamo ben contenti. Ci dica. Sì, guardi, ha perfettamente ragione. Infatti in questi giorni abbiamo avuto diverse segnalazioni di persone che sono legate in banca, ma fare versamenti si sono sentite chiedere i 4-5 euro di commissione. Ecco. Allora il primo consiglio che io do: se andate in una banca e vi chiede la commissione, dite no grazie e uscite fuori. Non fate un versamento laddove vi viene chiesto una commissione, perché è veramente una cosa indegna. Un po' agghiacciante davvero, no? Che dice? Esatto, andate in posta c'è un conto corrente senza alcuna commissione, fatelo lì. Se la banca invece anch'essa non chiede commissione, tranquillamente fatelo nel presso della vostra banca. Ma la prima regola è no a pagare le commissioni. Landi, il secondo punto della questione, come si fa? Poi naturalmente nella maggior parte dei casi si tratta di contributi modesti, di quello che uno può dare, ma ci sono casi in cui alcune persone si impegnano anche seriamente dal punto di vista economico per metterci qualcosa di proprio. Come si fa a sapere, a seguire le tracce di questi soldi, anche alla luce insomma di esperienze italiane, anche in questo caso non proprio brillantissime in passato? Ecco, anche qui credo che bisogna andare un po' sul sicuro. Ci sono diverse possibilità. Uno vuole andare tramite la possibilità della propria parrocchia, della propria chiesa, è un conto corrente che viene gestito, come dire, contributi che vengono gestiti e controllati dalla chiesa. Certo. Possono essere fatti sulla protezione civile, nella misura in cui uno ha una piena fiducia sulla protezione civile, questo versamento può essere fatto sulla protezione civile. Può essere fatto, come dire, attraverso fondi che hanno aperto i vari giornali, le varie TV. Benissimo, anche questo penso sia un canale abbastanza controllato. Affidabile. Inoltre, anche il sindacato e la Confindustria hanno concordato di una tenuta, come dire, sulla busta paga a favore, e anche questo è un conto corrente cui l'utilizzo poi è controllato sia dal sindacato sia dalla Confindustria. Cioè l'importanza è di versare su un conto corrente di una struttura, sia esso giornale, sia esso parrocchia, sia esso protezione civile, sia esso sindacato o altro, di cui si abbia piena fiducia. Non versateli sul primo, come dire, che vi capita, perché è a rischio. E purtroppo ci sono anche casi, come abbiamo visto, in cui gente si presenta che poi sono veramente invece delle podi, vorrei dire. Grazie a Paolo Landi, il messaggio è molto chiaro, tra l'altro si lega a delle notizie che sono sotto i vostri occhi su tutti i giornali, c'è un tentativo di sciacallaggio addirittura di tipo telematico, comunque di tipo apparentemente, no, legato a un filone di raccolta a fondi che poi altro non è che una truffa. Il messaggio è chiarissimo, nessuna sovrattassa, nessun servizio va pagato o riconosciuto in occasioni di un versamento di questo genere. Tutto ciò che date deve finire dove è giusto che finisca e nulla in più deve essere dovuto. E il segretario di Adiconsum dice andate sul sicuro, le sigle sono note, quelli sono soldi che sapete dove state mettendo, si tratti di protezione civile o Croce Rossa o comunque la posta. Non richiede, la Posta Italiana non richiede alcuna sovrattassa, oppure se volete le strutture locali di cui tanto, no, in questo momento si sta tornando a parlare, un associazionismo locale che può essere quello della parrocchia o magari di una organizzazione invece di volontariato a cui siete vicini, è sicuramente la strada migliore. Ecco. qui, abbiamo dato spazio anche alla voce di Vivian Su per chiudere questa settimana assai particolare, in cui anche Jefferson 2 ha partecipato, no, di un regime straordinario imposto dalle condizioni, dagli eventi, dalla attualità, con tutto il dramma che ha portato in sé, anche con la elaborazione del dramma che è andata in scena appena poche ore or sono all'Aquila. E il programma torna naturalmente al suo corso naturale a partire dalle prossime puntate, e intanto nel frattempo vogliamo augurarvi tutti insieme una buona serena Pasqua a tutti gli ascoltatori di Jefferson 2 e più in generale anche di Radio 24, Stefano Pistolini e anche Emiliano Enrico, associati in questo augurio, vi danno appuntamento alla settimana prossima qui sempre su Radio 24.